Monti Malinconico, incontro a Palazzo Chigi, pesano l'ombra dell'hotel pagato da Crick. Nel pomeriggio la giunta vota l'arresto per Cosentino. Il San Raffaele al gruppo Rotelli, nessun rilancio nell'asta di questa mattina. Dopo Cortina, Abano Terme, controlli negli alberghi, ma è solo una bufala. Trascinato dall'auto della madre, muore a 10 anni davanti a scuola in incidente nel Trevigiano. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, questi i titoli. Cominciamo però dall'ospedale San Raffaele, che dunque passerebbe ufficialmente di mano, ma ci racconta tutto Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Inizia la nuova era del San Raffaele, l'era targata Rotelli. L'imprenditore della sanità vince sul duo Malacalza-Ior. Un'ora fa, infatti, sono scaduti i termini per un eventuale rilancio da parte della cordata a cui partecipava il Vaticano sull'offerta da 405 milioni messa sul piatto dal titolare, tra l'altro già del gruppo ospedaliero San Donato. Ma qui, a pochi passi dal Duomo, nello studio del notaio Enrico Chiodi Daelli, nessuno si è presentato per la parte Ior Malacalza, come è stato verbalizzato dallo stesso notaio. Sentiamo. Sarebbe diventata definitiva perché è la fondazione che prenderà la decisione definitiva, come ha fatto ieri, per l'accettazione delle proposte. Quindi il fatto che non si sia presentato nessuno della, diciamo, cordata Malacalza Ior vuol dire che resta allo Stato la loro precedente offerta? Cioè, non si sono allineati con le offerte in aumento, quindi questa asta sarebbe assegnata al gruppo Velca. Nel pomeriggio il CDA della Fondazione Monte Tabor dovrà ratificare, come sentivamo, il passaggio di mano dell'istituto, il cui assetto finanziario da un anno è sotto la lente del Tribunale di Milano, che ha anche un'inchiesta per concorso in bancarotta dopo la scoperta di una voragine di debiti da 1,5 miliardi. Chiuso dunque l'anno del crack, degli scandali, della morte del fondatore Don Luigi Verzé e prima del suo braccio destro Mario Cal, per il polo ospedaliero di Segrate inizia oggi un'era nuova. E per ora è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Noi andiamo ora invece a Palazzo Chigi, perché questa mattina c'è stato un incontro fuori programma. Il Premier Monti ha convocato il sottosegretario Malinconico dopo le indiscrezioni sulle sue frequentazioni. Andiamo da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Al centro dell'incontro la bufera mediatico-giudiziaria che sta coinvolgendo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria. Il Premier Monti starà chiedendo sicuramente dettagli e chiarimenti dopo le polemiche per le spese all'hotel Pellicano di Porto Ercole nell'Argentario, dove l'attuale esponente del governo soggiornò, spese pagate allora da Francesco De Vito Piscicelli, quest'ultimo, lo ricorderete, membro della cosiddetta cricca del G8 e tra coloro che, come emerse da alcune intercettazioni la notte del terremoto all'Aquila, risero pensando ai futuri contratti per la ricostruzione. L'incontro di Palazzo Chigi, fanno notare fonti vicine al sottosegretario, sarebbe stato chiesto la scorsa settimana dallo stesso Malinconico, che avrebbe portato con sé la nota diffusa ieri dalle agenzie con la sua ricostruzione dell'accaduto. Nella nota l'ex presidente della SIEG spiegava di non aver mai fatto favori ai personaggi coinvolti e di aver appreso solo ora che Piscicelli avrebbe pagato di proprie iniziative, per ragioni a lui del tutto ignote, alcuni dei soggiorni presso la struttura alberghiera. Da più parti del mondo politico si chiede comunque che Malinconico faccia un passo indietro. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. E nel pomeriggio sarà il PDL a fare i conti con un'altra vicenda, la richiesta d'arresto per Cosentino. Allora sentiamo anche su questo fronte a che punto siamo, Elisabetta Fiorito. Sì, la giunta per le autorizzazioni a procedere si riunirà qui a Montecitorio fra un'ora, ma una nuova memoria difensiva è stata depositata proprio da Nicola Cosentino, accusato, ricordiamo, dai magistrati napoletani di essere il referente politico del clan dei Casalesi. Il documento di ben 137 pagine potrebbe quindi far slittare il voto sulla richiesta di arresto che era previsto per oggi. Occorre probabilmente maggiore tempo per visionare le nuove carte e dopo la spaccatura di ieri della Lega, che voterà sì all'arresto del coordinatore del PDL in campagna, questa mattina il PDL attacca per Maurizio Paniz. È evidente che la decisione della Lega sia molto poco tecnico-giuridica e molto politica. La scelta del Carroccio ieri in via Bellerio, dove ha prevalso la linea di Roberto Maroni, anche se stamattina Luca Paolini, componente della Lega in giunta per le autorizzazioni, invita alla prudenza. La documentazione presentata da Cosentino è corposa, forse sarà necessario un rinvio. replica Donatella Ferranti del PD, si vota in giunta per votare solo se c'è fumus persecutionis su Cosentino. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie, veniamo intanto ai provvedimenti in campo da parte del governo. Proseguono gli incontri del ministro Fornero con i sindacati per discutere delle riforme del lavoro. Questa mattina è toccato all'UGL. Il governo è pronto a riformare gli ammortizzatori sociali insieme ai sindacati, ha detto il segretario generale dell'UGL Giovanni Centrella poco fa al termine dell'incontro. Domani toccherà a Confindustria. È partito anche il conto alla rovescia per le liberalizzazioni. Entro 10 giorni il governo ha intenzione di intervenire per decreto legge. Il sottosegretario alla presidenza Antonio Catricalà ha spiegato ieri sera che si intende intervenire su tutti i settori. In arrivo, fra l'altro, un aumento della pianta organica per tassisti, farmacie e notai. Molte le proteste. In questa edizione parliamo dei notai. L'aumento è appena stato fatto e non è necessario, dice Gianfranco Laurini, presidente del Consiglio nazionale del notariato, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Noi abbiamo avuto un mese fa un aumento di 467 posti della nostra pianta organica che noi abbiamo sponsorizzato e sostenuto. Allo Stato abbiamo quindi 1000 posti liberi circa, oggetto in parte di concorsi in atto e in parte dovranno essere messi a concorso. Ulteriori aumenti. Il momento è di grave crisi, noi abbiamo registrato in questi 4 anni ben il 38% di calo nel volume di lavoro, quindi bisogna andare molto con i piedi di piombo in aumenti che tra l'altro metterebbero in crisi, oltre che il notariato, i nostri studi e i nostri circa 40.000 dipendenti che gravitano intorno a noi e quindi dobbiamo preoccuparci di loro. Bisogna creare più concorrenza per dare sconti ai cittadini sulle tariffe, dice Catricalà. Ecco, su questo fronte la vostra categoria? Ci riguarda, diciamo, relativamente, perché siamo pubblici ufficiali. Il costo del pubblico servizio è predeterminato dal Ministro di Giustizia, non è una tariffa che noi ci giochiamo come altre categorie. L'agenzia di rating Fitch, verso il taglio del rating dell'Italia ci sono possibilità di downgrade, dice l'agenzia che sta per completare la revisione del giudizio e preannuncia un declassamento dall'attuale A+. Servirebbe un'assicurazione contro la crisi di liquidità, dicono dall'agenzia. Intanto però sui mercati tornano gli acquisti. Piazza Affari guadagna il 3% in questo momento e rimbalza Unicredit a più 6,8%. E nell'agenda del Governo Monti c'è anche l'incontro domani con Angela Merkel. Andiamo allora dall'inviato a Berlino. Luci e ombre alla vigilia dell'incontro che il premier italiano Mario Monti avrà domani a Berlino con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Se da un lato l'incontro franco-tedesco di ieri ha aperto nuove prospettive per quanto riguarda la necessità di insistere anche sulla crescita, e su questo la Merkel è stata molto precisa, dall'altro la delegazione tedesca che sta negoziando il cosiddetto fiscal compact a Bruxelles ha fatto stato ieri della necessità che i paesi più indebitati dovranno cominciare subito a ridurre la loro esposizione e non fra 3 anni come previsto fino adesso. L'incontro di domani a Berlino tra Monti e la Merkel rientra in un grande giro diplomatico europeo che si concluderà il 30 gennaio con il vertice straordinario a Bruxelles. Il 20 a Roma il Premier Monti ospiterà una trilaterale con Merkel e Sarkozy in vista anche dell'Eurogruppo del 23. Per il 1° marzo è prevista la firma del nuovo trattato, il Fiscal Compact, che dovrà prevedere norme più rigide per la disciplina di bilancio, ma un'accelerazione del negoziato non preoccupa più di tanto l'Italia. Gerardo Perosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. E intanto il cancelliere tedesco Angela Merkel vedrà oggi il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. L'appuntamento è fissato per le 20. C'è un'altra vicenda che sta facendo discutere dopo Cortina, nuovi blitz anti-evasione ad Abano Terme. Così la notizia diffusa questa mattina, ma Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza smentiscono. Il colonnello Ivano Maccani della Guardia di Finanza di Padova, Radio 24, lo ha intervistato Valentina Furlanetto. Noi non abbiamo fatto nessun blitz né ieri né l'altro ieri né a Natale né a Capodanno ad Abano Terme. Com'è uscita questa notizia, colonnello? Guardi, stando a quello che ho letto dai giornali, il Gazzettino avrebbe intervistato un rappresentante dell'associazione albergatori, il quale avrebbe detto che noi abbiamo fatto dei controlli, ma noi i controlli li facciamo abitualmente, cioè abbiamo in corso delle verifiche in varie parti della provincia di Padova, ma verifiche ordinarie, come dire i carabinieri oggi hanno fatto un blitz su i furti, no? Ma tutti i giorni arrestano qualcuno per furti. Noi comunque ieri ad Abano... Non siete entrati negli alberghi a 5 stelle chiedendo dei clienti facoltosi? Assolutamente no. E da quello che mi risulta neppure l'Agenzia delle Entrate, le risulta anche a lei? Questo a me non risulta che l'abbia fatto neanche l'Agenzia delle Entrate. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. È tempo di bonus. Quando l'economia andava bene era una scelta assai diffusa per le aziende premiare i lavoratori per la loro produttività e i risultati ottenuti. Ma anche ora, nonostante la crisi, la prassi continua. Bene. Molto bene. Il problema è che frequentemente il premio viene dato in contanti, fuori busta. In parole povere, i bonus vengono dati in nero, senza pagare le tasse. E quel nero alimenta l'evasione fiscale a tutto campo. Certo, anche la legge italiana, come spesso accade, ci mette lo zampino. Infatti, il nero dei bonus aziendali è alimentato dal fatto che il provvedimento di detassazione degli straordinari, che ha abbassato l'aliquota al 10% e si applica anche ai premi aziendali, contiene una limitazione. La detassazione viene applicata soltanto se il reddito imponibile di quel dipendente l'anno precedente è stato inferiore a 35.000 euro lordi. Quindi tutti quelli sopra questa cifra sono penalizzati, a meno che non scatti la busta in nero. Ed è quello che accade in barba alle leggi e ai lavoratori che dichiarano fino all'ultimo centesimo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Italia condannata dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo per i rifiuti di Napoli. Lo Stato italiano non è stato capace di gestire l'emergenza, ha riconosciuto la Corte sulla base di un ricorso presentato da 18 cittadini di Somma Vesuviana. Lo Stato non può costringere, dice la sentenza, i suoi abitanti a vivere tra i rifiuti. La cronaca, una donna ha accidentalmente provocato la morte del figlio di 10 anni travolgendolo con l'automobile di fronte alla scuola elementare dove la stava accompagnando a Revine Lago, in provincia di Treviso. Il bambino, sceso dall'auto, sarebbe rimasto impigliato con le cinghie dello zainetto nella portiera e la madre, senza accorgersene, sarebbe ripartita travolgendolo. Prima udienza al Tribunale di Taranto, il processo per l'omicidio di Sara Scazzi. In aula, all'interno della gabbia, ci sono Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Le due donne alla sbarra per omicidio, sequestro di persone e soppressione di cadavere sono le uniche due detenute per il delitto della quindicenne. Sara Scazzi, lo ricordiamo, venne uccisa il 26 agosto del 2010 da Vetrana. Il corpo, buttato in un pozzo nelle campagne alle porte del paese, fu ritrovato nella notte fra il 6 e il 7 ottobre dello stesso anno. Alla sbarra complessivamente in questo processo 9 persone, fra cui Michele Misseri, accusato di soppressione di cadavere. Dello stesso reato rispondono anche il fratello di Misseri, Carmine, e il nipote Cosimo Cosma. Infine sono imputati per favoreggiamento personale Antonio Colazzo, Giuseppe Nigro, Cosima Prudenzano e Vito Russo, ex legale di Sabrina, accusato anche di intralcio alla giustizia. Questa mattina in aula Sabrina Misseri piange in disparte nella gabbia degli imputati e si nasconde dietro la madre. Aveva chiesto di non essere ripresa dalle telecamere. La richiesta dei suoi legali è stata accolta alla fine dalla presidente della Corte d'Assise, Cesarina Trunfio, e così il processo non potrà essere ripreso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24. Si è dimesso il sottosegretario Malinconico appena concluso l'incontro a Palazzo Chigi con Monti. Il San Raffaele al gruppo Rotelli, nessun rilancio nell'asta di questa mattina. Mafia SPA, la banca più florida in Italia, un fatturato da 140 miliardi e soldi cash da prestare, denuncia SOS Impresa. In Francia, terzo incomodo, l'ex calciatore Eric Cantona sfida Sarkozy e Hollande. La notizia dell'ultima ora l'avete appena sentita, un flash d'agenzia, il sottosegretario Malinconico si è dimesso questa mattina, era stato convocato dal Premier Monti, vi abbiamo raccontato anche noi, per discutere dell'hotel che gli sarebbe stato pagato dalla Cricca, poco fa l'annuncio, le dimissioni di Malinconico. Ma voltiamo pagina e parliamo invece ora di altro, un fatturato che si aggira intorno ai 140 miliardi di euro con un utile superiore ai 100 miliardi, un'azienda che non risente della crisi. Parliamo di Mafia S.p.A., così i dati sulla criminalità finanziaria presentati oggi da SOS Imprese, che denuncia in un periodo in cui cala la liquidità delle banche, aumenta invece il cash della criminalità, mentre in calo sono le denunce. E allora al microfono di Alessandra Schepisi, Antonio Catrozzo, imprenditore edile di Battipaglia in provincia di Salerno, vittima del racket e dell'usura. Siccome la nostra azienda, diciamo, era abbastanza valida, 5-6 anni fa venimmo bussati dalla camorra di zona che dovevamo fare un bagno alla camorrista, una casa al capo clan. Incominciamo, noi pensavamo di fare una cosa giusta, così stavamo tranquilli, e incominciamo ad indebitarci. Poi stesso, diciamo, nel loro giro ci presentarono usurai, poi più vari usurai sempre collegati a loro, che ci hanno portato alla rovina. L'anno scorso, quando poi sono arrivati alle minacce che mi volevano uccidere le mie figlie, mi sono presentato ai carabinieri, i quali, diciamo, ci hanno accolto come una grande famiglia, e bisogna denunciare perché è un vicolo chiuso e da un anno e mezzo mi è incominciata una nuova vita. Quindi lei adesso cosa fa? Lavoro presso un'azienda simile a quella dove lavoravo io, che era mia. Faccio il procacciatore di vendite, diciamo, per questa azienda. Sopravvive la giornata, tutto qua. Quindi lei è qua a dare una testimonianza? Sono per convincere le altre persone, perché parecchie hanno la vergogna di andare a denunciare, dice io sono sotto usura, no? Bisogna aprirsi e andare dalle forze dell'ordine. Anche la paura? La paura la fa la padrona, e infatti la paura mi ha portato, quando hanno minacciato le mie figlie, di andare dai carabinieri. Poi i tempi della giustizia, ci sono ancora altre denunce fatte da un anno che non hanno avuto esito. Siamo in attesa che la magistratura poi faccia i suoi passi. Ed ora una notizia che dallo sport entra nella politica, quella francese. Tu devi dire no. No! No! Devi dirlo con le palle! No! La grande stella del calcio francese e idolo dei tifosi del Manchester United, Eric Cantona, vuole candidarsi per le elezioni presidenziali francesi del prossimo 23 aprile. Lo si legge in una lettera uscita sul sito di Liberazione, in cui lo stesso Cantona chiede ai sindaci francesi le 500 firme necessarie per poter sfidare Sarkozy e Hollande nella corsa all'Eliseo. Non è la prima volta, Giorgio Weah in Liberia per esempio, che un calciatore tenta la strada della politica. Ricordiamo anche Gianni Rivera, più volte parlamentare in Italia. Ma Eric Cantona, 45 anni, è un'altra cosa. Grande calciatore, grandissimo attore in quel divertentissimo film di Ken Loach, Il mio amico Eric Cantona. Grande provocatore nel suo modo di essere campione. Siamo sicuri che anche in questa nuova avventura, comunque vada a finire, Cantona saprà essere all'altezza del suo personaggio. Forza Cantona, facci sognare. Siamo tutti pronti? Sì! Operazione Cantona! Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo in Siria. Il presidente siriano Bashar Assad non fa passi indietro, lo sentite in un discorso trasmesso in diretta TV, ha ribadito questa mattina che le violenze nel paese sono state provocate da un complotto straniero che sta provocando un collasso psicologico di Damasco. Duro il presidente Assad, che non ha lasciato spazio al dialogo, la carica di presidente affermato e di alta responsabilità non può essere presa alla leggera, e ha annunciato: non lascerò il mio posto. Andiamo avanti, sfilerando per le strade di Roma oggi i commercianti cinesi. Dopo l'episodio della scorsa settimana c'è paura. Potrebbero essere fuggiti all'estero, ma le forze dell'ordine nelle ultime ore hanno comunque continuato a passare al setaccio anche i quartieri di Roma Est. Qui in passato avrebbero già compiuto alcune rapine i due marocchini accusati dell'omicidio di Torpignattara. Sempre ai danni di cinesi, i due hanno ormai un nome e un volto. Carabinieri e polizia li stanno cercando soprattutto nelle zone abitualmente frequentate dagli immigrati nordafricani. In segno di lutto, intanto, oggi pomeriggio la comunità cinese chiuderà i suoi negozi negozi e scenderà in strada per ricordare le due vittime dell'omicidio, il commerciante 31enne Zhu Zheng e sua figlia Joy di appena 9 mesi. L'appuntamento è a Piazza Vittorio, all'Esquilino, cuore della Roma multietnica e della Chinatown capitolina. Da qui un corteo al quale hanno aderito anche molte associazioni della società civile sfilerà verso Torpignattara, dove si unirà ad una fiaccolata organizzata dagli abitanti del quartiere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torniamo a Palazzo Chigi. Poco fa vi abbiamo dato la notizia dell'ultima ora, le dimissioni del sottosegretario Malinconico dopo l'incontro con il premier Monti. È uscita anche una nota di Palazzo Chigi, allora un aggiornamento lo chiediamo ancora a Vincenzo Miglietta. Sì, di nuovo buongiorno, con me la nota. Il sottosegretario Malinconico ha riferito al Presidente del Consiglio Monti in relazione ai fatti e alle circostanze riportate dalla stampa, affermando la correttezza della propria condotta. Malinconico ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, spiega la nota, per poter meglio difendere la propria immagine e onorabilità in tutte le sedi, nonché per salvaguardare la credibilità e l'efficacia dell'azione del governo. C'è anche un commento del Presidente del Consiglio. Monti, nell'accettare le dimissioni, ha manifestato al sottosegretario il suo apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato nell'anteporre l'interesse pubblico ad ogni altra considerazione. Il presidente Monti ha inoltre ringraziato Malinconico per il suo contributo al lavoro del governo. E da Roma è tutto. Grazie ancora a Vincenzo Miglietta. Dopo la bocciatura da parte dell'antitrust sull'affidamento dei lavori di restauro del Colosseo alla TOZ di Diego della Valle, ci sono scatenate le polemiche. Allora abbiamo sentito questa mattina Roberto Cecchi, sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali. Lo ha sentito Adriana Fracchia. Non è una bocciatura, sono semplicemente delle raccomandazioni all'interno di una norma che non esiste per quanto concerne la questione delle sponsorizzazioni. Quindi risponderemo punto per punto alle osservazioni che l'antitrust fa. Sono sicuro, convinto, sereno che verranno tranquillamente accettate. Il sindaco Alemanno ha detto una battaglia ideologica contro un gruppo che mette a disposizione del Ministero 25 milioni di euro in sponsorizzazioni. È d'accordo? Ma in questo paese è molto difficile fare le cose, anche le cose migliori. Considero il fatto che un imprenditore decida di considerare il restauro del Colosseo un aspetto imprenditoriale un fatto largamente positivo, e che contro un'iniziativa così importante, ripeto, tanto positiva, si scatenino delle azioni di questa natura, francamente va contro l'interesse del Paese. Sono danari, 25 milioni di euro in questo momento, quando il nostro bilancio per l'intero territorio nazionale vale più o meno 80 milioni, avere 25 milioni di euro da un soggetto esterno è largamente positivo anche in altri termini, dovrebbe poter fare da battistrada ad altre iniziative di questa stessa natura di altri soggetti privati. Certamente questo calvario non va a favore né della Valle né di altri che vogliono intervenire. L'ultima puntata nella vicenda su calcio e scommesse è un video postato su YouTube, ha per protagonista il portiere del Napoli della nazionale De Sanctis. 81esimo di Napoli-Lecce, anticipo della 14esima del campionato 2011-2012. Cavani segna il 4-1 che chiude la partita. Una telecamera, un telefonino riprende la strana esultanza del portiere del Napoli, Morgan De Sanctis, che, quasi sconsolato, allarga le braccia in un gesto di apparente dispiacere, scuotendo il capo. Le immagini si allargano e si vede Cristiano Lucarelli, appostato dietro i cartelloni pubblicitari, che informa il compagno di squadra che alla fine della gara mancano una manciata di minuti. Il video spopola in rete su YouTube e tanto basta per lanciare sospetti sulla partita dello scorso 3 dicembre, poi finita 4-2 per i partenopei. Perché quella strana esultanza del portiere? Perché Sky l'ha trasmessa solo una volta? Si chiede Cristiano Blanco, giornalista che ha caricato il video su YouTube. De Sanctis si giustifica così. Il mio gesto era un gesto di liberazione. Chi mi conosce bene sa che quello è il mio carattere, io gioisco alla fine, negli spogliatoi non lo faccio quasi mai sul campo. Risposta che convince fino a un certo punto Blanco, poi intervenuto a Sky Sport. Non ho nulla contro lui e non volevo dire niente, volevo solo fare delle domande e mi aspettavo delle risposte che poi ci sono anche state. Non sta a me dire se erano soddisfacenti oppure no. Sono solo i primi frutti amari di Scommessopoli. Altri, statene certi, sono in arrivo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'altra notizia dell'ultima ora arriva dall'Ungheria, appena battuta dalle agenzie, dove si è dimesso il capo dell'autorità di sorveglianza sul bilancio di Budapest, un ex alleato del premier ungherese Viktor Orban, critico della sua politica economica, si è dimesso poco fa dal suo incarico di capo dell'autorità di sorveglianza sui conti pubblici. Formalmente la motivazione è quella di un incarico di lavoro troppo pesante, ma tant'è, un nuovo problema per il governo ungherese, la cui situazione pesa sempre di più sulla situazione dell'Eurozona. Era questa l'ultima notizia, la notizia dell'ultima ora di questa edizione di GR24, la prossima alle 14. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati, vi lascio con Italia in Controluce. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.